mio primo amico era un gay. E purtroppo ha avuto un sacco di problemi e ha deciso di farsi prete. E poi ho avuto sempre degli amici da piccola che erano. Insomma, conosco un po' la problematica. Il pesce rosso. E qua siamo a Padova, che voglio dire, è una città comunque aperta. E in Sicilia è proprio tabù. Cioè, i gay e le buttane fanno parte di una categoria della diversità. Sicuramente è un problema di cultura, anche se scontato.